Ti fa più paura la solitudine o la violenza? Che Violenza. tipo di violenza? Ma violenza di qualsiasi genere, perché comunque la violenza provoca sempre dei danni e quindi è una cosa che mi fa estremamente paura. Tu sei mai stato violento? Verbalmente sì. Contro chi o cosa? E contro chi è capitato con mio fratello, con i miei genitori, con qualche sconosciuto anche. Associa una parola alla parola violenza. Associa Danno. un oggetto alla parola violenza. Un oggetto della parola violenza. Bastone. C'è differenza tra uomini e No, assolutamente. donne? Ti senti uomo, donna o altro? Uomo. Associa un aggettivo alla parola uomo e un aggettivo alla parola donna. Un aggettivo alla parola uomo è nella maggior parte dei casi arrogante. È un aggettivo invece alla donna, la parola donna, cioè un aggettivo proprio in generale non c'è, secondo me. Però ce ne possono essere vari, in alcuni casi in difesa, in altri forte, anche se sono delle cose contrastanti, però secondo me in base alla, insomma, cioè in base a ciò di cui si sta parlando, ecco, non c'è un aggettivo in generale per definire. Il primo però che ti è venuto è uomo arrogante e Sì. donna In difesa. in difesa. Tu pensi sia possibile che un giorno scopri di essere esattamente il contrario, non il contrario, comunque ti scopri di essere donna, pensi possa accadere in te? Allora, io per una mia teoria di vita, ho appunto una teoria che secondo me tutto è possibile al 99%, perché al 100% c'è solo la moglie, c'è solo la morte, scusami. Per cui c'è quell'1% che ti posso dire sì, per l'1%, anche se ti potrei anche dire no, però non, dato che di certo c'è solo la morte, ti dico sì. È possibile. Sì, possibile, 100% sì. E ti spaventerebbe? Non ci penso e non ci ho mai pensato, per cui no, no, sinceramente Ti sei mai sentito vulnerabile in quanto uomo? no. Sì, questo sì, assolutamente, perché l'essere uomo non significa necessariamente essere forte. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Dipende dalla persona della quale vedo il corpo nudo. Se vedo il corpo nudo del mio partner, che sia una moglie, una fidanzata, quello che sia, mi può provocare sicuramente eccitamento, insomma, tante sensazioni belle. Oppure, che ne so, se vedo il corpo nudo di mia figlia, una bambina di 5 anni, quando le facciamo il bagnetto, roba del genere, non mi suscita niente, anzi mi suscita anche un po' di tenerezza, perché poi man mano la vedi crescere, quindi. No, tutte queste cose. Cosa ti fa arrabbiare? Mi fa arrabbiare molto l'arroganza, soprattutto, e il non ammettere i propri errori, le proprie colpe. Cioè, ci sono tante cose che mi danno fastidio. Però queste credo che siano quelle proprio principali, anche la mancanza di rispetto per le altre persone, per le altre cose, insomma tutto ciò che. Quindi arroganza, mancanza di rispetto Sì, tutto quello. provocano rabbia Sì, in assolutamente, te. secondo me sì. E cosa fai quando sei molto arrabbiato? Senti, fortunatamente non ho reazioni che vanno oltre un linguaggio molto colorito, sinceramente. Questa è una cosa, che ho notato in me, perché a volte quando sono molto, molto arrabbiato, finisco per esagerare anche con le parole. Quindi va sul Cerco verbale di la tua fare il più rabbia. male possibile, però sempre, sempre con le parole. Quindi verbale. Sì, assolutamente sì. Sì, Hai mai paura? certo, ci sono dei momenti in cui ho paura, come questo che sto vivendo adesso, questa nuova esperienza di vita, lontano dalla famiglia, con il lavoro, dover cercare casa, tante situazioni che mi provocano sì un po' di paura, sinceramente. Quindi di cosa hai paura? Di cosa? Ho paura di non riuscire. Io sono una persona molto testarda e quando decido di fare qualcosa la faccio perché sono davvero deciso. E quindi nel momento in cui temo di non riuscire a realizzare questo progetto, ho appunto questa paura di fallire. Di Quindi hai fallire e paura di aver del... sbagliato a fare ciò che ho iniziato a fare. Quindi hai paura del fallimento. Sì. Hai mai subito violenze o soprusi? No, cioè, tranne che verbali, no, assolutamente. Tranne che verbali, quindi verbali, Sì, sì. Più durante un litigio, una cosa sicuramente, assolutamente. o meno, se dovessi dire quanti, in una settimana, in un mese, in una vita, quanti soprusi avrai subito nella tua vita? Questo di preciso non te lo so dire, sinceramente, non ho proprio un'idea di quantità, non lo so. Ti viene in mente un episodio di violenza subita o vista? No, forse una violenza sempre a livello verbale nell'ambito lavorativo, perché in un mio precedente lavoro non c'erano dei buonissimi rapporti con i datori, che erano delle persone, non voglio dire poco raccomandabili, ma quasi, per cui non si andava sul sottile, quando c'era da dire qualcosa veniva detta in maniera molto, diciamo, violenta, ecco. Con una parola o poche parole, qual è secondo te il confine della persona? Intuitivo. Il confine della persona, il rispetto. Cosa ti fa sentire protetto? Protetto mi fa sentire la mia famiglia, sicuramente. Per tanti motivi, perché comunque mia moglie mi sta sempre vicino in ogni mia decisione, anche se a volte non è d'accordo, però non mi impedisce mai di realizzare ciò che credo sia giusto, e quindi questo mi dà molta protezione, sinceramente. Quindi mi fa sentire protetto la famiglia. Sì, assolutamente sì.